Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Il primo elemento su cui prendiamo un impegno è lo sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione attraverso un diverso utilizzo della cassa depositi e prestiti. Il secondo elemento è la costituzione e il sostegno di fondi di garanzia dell'unica reale, importante, fondamentale questione che noi abbiamo sul tappeto, che è quello delle piccole e medie imprese che non riescono ad accedere al credito. Il terzo punto che noi poniamo immediatamente alla vostra attenzione è una riduzione a doppia cifra del cuneo fiscale. Ma vi sembra possibile che mentre nel mondo le start-up vivono in una dimensione straordinariamente innovativa, noi siamo invece fermi tra conferenze dei servizi, sovrintendenze, freni burocratici, prima di riuscire a portare a casa un risultato concreto come quello dell'apertura di un capannone? Viviamo dei tempi che sono tempi biblici. Noi partiremo entro il mese di marzo con la discussione parlamentare del cosiddetto piano per il lavoro. Mi recherò, come facevo da sindaco nelle scuole, per dare un segnale simbolico che da lì riparte un paese. Bisogna anche avere il coraggio di dire che la cultura deve aprirsi al coinvolgimento degli investimenti reali e creare posti di lavoro. Noi proponiamo che fin dal mese di marzo la riforma del Senato parta dal Senato, la riforma del titolo quinto parta dalla Camera. Consideriamo l'Italicum non soltanto una priorità, ma una prima parziale risposta all'esigenza di evitare che la politica perda ulteriormente la faccia. Esiste un nesso netto tra l'accordo sulla legge elettorale, la riforma del Senato e la riforma del titolo quinto. Noi abbiamo una sola occasione, è questa. E noi vi diciamo, guardandovi negli occhi, che se dovessimo perdere, non cercheremmo alibi. Se perderemo questa sfida, la colpa sarà soltanto mia. Allora, questa è una breve sintesi, Mario. È un governo Renzi, ci mette la faccia in pieno. Beh, su questo non ci sono dubbi. Diciamo poi sulla forma, su come l'ha fatto, magari ne discutiamo anche dopo. Però è logico che questo è il governo Renzi, non è più un governo napolitano. Questo è abbastanza chiaro. Ed è un grande cambio. È un governo politico, dai. Petrangelo? È evidente. E la faccia è di Renzi, ma io credo che, e non vorrei fare retroscena, io credo che è arrivato lì, ha preso questo tram perché la situazione internazionale gliel'ha creata. Io credo che a maggior ragione sia un governo dei poteri forti, i poteri ostili poi al sentimento diffuso della gente, che comunque viene presa allegramente in giro anche dalla faccia accattivante di Renzi e dal suo eloquio, che è perfetto per fare chiacchiere al bar, ma che volutamente non ha dato contenuti. E non è un semplicemente invece un'assunzione di responsabilità totale di fronte alla difficoltà di dire cose concrete prima di averle fatte. Guarda, c'è un dato. Io dico che la politica è fatta anche di ideali e di bandiere e di prese di posizione. Lui non ha né ideali né bandiere né prese di posizione. Ha semplicemente vestito quello che 20 anni di berlusconismo hanno creato in Italia. Lui è un Berlusconi invecchiato e con una differenza rispetto al predecessore, che almeno quello aveva una storia tutta sua di arci italiano, che è stato anche imprenditore. Lui è uno che ha fatto uso spregiudicato perfino della parola, è un boy scout, dovrebbe dire parola di lupetto rispetto ad ogni sua azione, ma non c'è un concetto che poi abbia corrisposto. Certo, come contesto no? Anch'io. Buttafuoco, nel senso che non posso essere certo sospettato di renzismo. No, ma non c'è problema, uno dice quello che pensa, basta. La cosa è molto più, secondo me, è molto più complessa e nello stesso tempo semplice. È un leader di 38 anni, è post-ideologico. Non ci sono dubbi, non ha gli ismi dietro, proviene dunque da un certo tipo di cultura, chiamiamola giovanile, in realtà se poi guardiamo i giovani, i ventenni, addirittura sarebbe anche un po' diciamo old, un po' âgé se vuoi, e in realtà però è il nuovo in un contesto del genere. Ripeto, ho delle riserve sulla forma di alcune cose che ho visto ieri soprattutto, ma il governo era il migliore possibile, doveva fare questo passo e per l'Italia, lasciatemelo dire, è anche l'ultima opportunità vera. Dopodiché, se fallisce l'esperimento Renzi, come è stato definito dal Welt, non so che cosa succede. Ecco, io penso che questo governo sia un governo Renzi-Renzi, vedremo i contenuti, risponderà lui a buttafuoco coi fatti. E intanto sentiamo il professor Amadori, psicologo della politica. Professore, dovremmo parlare di contenuti, ma lo stile intanto è innovativo. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma lo stile è innovativo nella continuità, nel senso che riprende largamente codici espressivi e codici retorici introdotti e sviluppati da Silvio Berlusconi nel corso della cosiddetta Seconda Repubblica. L'innovazione sta nel taglio, che più che seduttivo e conquistatorio, come può apparire a prima vista, è in realtà un taglio, a mio parere, di tipo predicatorio. E qui si vede l'origine parrocchiale, l'origine oratoriale di Renzi, il suo passato di scout da un lato e il suo presente di uomo di chiesa dall'altro, ha tutta l'efficacia dell'animatore oratoriale. Uomo di chiesa mi sembra un pochino tanto, non c'è, è andato in chiesa, è andato a fare la messa, insomma, se è una colpa va bene. Ma direi di chiesa in senso comunicativo, cioè io proprio ascoltandolo senza vederlo ho avuto la netta impressione che abbia tutta l'efficacia del buon giovane parroco di campagna che riesce ad arringare con passione e con chiarezza i suoi fedeli. Professor Amadori, ma è da parroco di campagna andare al Senato e dire questa è l'ultima volta che voterete un governo? E cioè li manda a casa in diretta? Tutti i parroci fanno così sempre con i loro fedeli? No, non tutti i parroci, però i parroci di rottura sì, i parroci di frontiera sì, i parroci che ritengono di avere una missione forte da compiere sì, in questo senso si comporta in maniera ecclesiastica. Senta, cioè, da uomo che porta un messaggio più grande di sé e che ha il coraggio di fare affermazioni molto forti. Senta, e il linguaggio di Renzi spiazza Grillo? Sì, il linguaggio di Renzi spiazza profondamente Grillo, che infatti... Ah, quindi è un parroco multitasking, diciamo. Assolutamente, spiazza Grillo proprio perché il linguaggio di Grillo è quello dell'aggressività, mentre il linguaggio di Renzi è quello di svelare i paradossi, di mettere le persone di fronte alle proprie responsabilità, e quindi è molto spiazzante per un uomo che vive di contrasto aggressivo come Grillo. Grazie, professore. Sull'Europa... che è un po' il nodo del nostro futuro immediato, però sull'Europa, il semestre europeo, invece Renzi ha detto questo: non saremo credibili se non riusciremo ad arrivare al semestre europeo avendo sistemato ciò che dobbiamo sistemare noi. Capisco che ci sia la facile tendenza in quest'aula, come alla Camera, come nell'opinione pubblica, a considerare l'Europa la madre dei nostri problemi. Vorrei dire che per me e per il governo che ho l'onore di presiedere non soltanto non è così, ma che nella tradizione europea europeista sta la parte migliore dell'Italia, che nella tradizione europea europeista, nei valori di libertà e democrazia, sta la certezza che l'Italia ha un futuro e non soltanto un passato. Mettere a posto le cose di casa nostra non deriva da un obbligo europeo. Non è la signora Merkel o il governatore Draghi a chiedere di essere seri con il nostro debito pubblico, è il rispetto che dobbiamo ai nostri figli, alle generazioni che verranno, è il rispetto che dobbiamo alle persone che verranno dopo di noi, che ci impone di guardare ai conti pubblici in modo diverso da come è stato fatto da chi ha scialacquato nel corso degli ultimi decenni. In un momento come quello che stiamo vivendo, con una generazione che tra l'altro è rappresentata anche al governo, che è una generazione Erasmus, che è la generazione che ha conosciuto il sogno degli Stati Uniti d'Europa come concretezza, che ha conosciuto l'euro come unica moneta o quasi. Di fronte a questa generazione, noi avvertiamo il bisogno di indicare una prospettiva di futuro. Marco Fortis, economista, vicepresidente della Fondazione Edison. Renzi dovrà negoziare con l'Europa la posizione dell'Italia. Lei ha scritto che il rapporto debito-PIL è un parametro stupido se applicato all'Italia. Buongiorno professore, perché? Buongiorno. Diciamo che è comunque un rapporto incompleto, perché la misura della sostenibilità finanziaria di una nazione non si misura soltanto con il PIL, il cui contributo maggiore rispetto al debito pubblico è quello di fornire attraverso la tassazione le entrate con cui un governo cerca di pareggiare il bilancio corrente dell'anno corrente. Quindi... Ma poi lo stock del debito rimane tale, e se si vuole dare certezza sulla sostenibilità dello stock preesistente, ammesso che si sia in pareggio di bilancio, bisogna disporre di altre cose, tra queste le risorse finanziarie complessive di tutto il sistema. Ecco, professore, lei dice anche che bisogna appunto ricalcolare il debito pubblico sullo stock finanziario delle famiglie, cioè sui risparmi delle famiglie. Esattamente che cosa vuol dire? Lo può spiegare in parole semplici? Ma in parole semplici è questo, che quasi tutti i sistemi economici hanno diciamo una ricchezza finanziaria, un patrimonio complessivo che è composto ovviamente di valori immobili e di valori mobili, cioè di risorse finanziarie. Lasciando perdere case, abitazioni, costruzioni, eccetera, nella maggioranza dei casi la ricchezza finanziaria netta di una nazione è costituita per quasi esclusivamente dalla ricchezza delle famiglie, perché le imprese sono indebitate, lo Stato è indebitato, le famiglie invece hanno dei risparmi. I risparmi delle famiglie tengono in piedi le banche attraverso i depositi, la sottoscrizione di obbligazioni bancarie, di azioni bancarie. Quindi se un paese ha uno stock di ricchezza finanziaria netta delle famiglie consistente, anche questo dovrebbe essere tenuto in considerazione assieme al PIL per calcolare, certo, la capacità di un paese di avere finanze pubbliche sostenibili. Ecco, professor Fortis, ma questo cosa cambierebbe? Vuol dire che non avremmo più debito pubblico con questo calcolo fatto in un altro modo? No, ma apparirebbe un debito pubblico meno pericoloso di quanto non appaia dal rapporto debito-PIL. Se noi guardiamo il rapporto debito-PIL, siamo il secondo paese d'Europa dopo la Grecia col debito pubblico più alto. Se lo rapportiamo alla ricchezza finanziaria netta delle famiglie, scendiamo al 14° posto e siamo sugli stessi livelli più o meno della Francia e della Germania. Non dico che tutto il rapporto del debito vada calcolato solo rispetto alla ricchezza finanziaria netta delle famiglie, però si potrebbero usare entrambi i parametri e si avrebbe anche rispetto alla valutazione delle agenzie di rating e alla considerazione che i mercati hanno dell'Italia un'immagine completamente diversa. Questo non risolve chiaramente il problema dell'alto stock del debito, che va comunque fermato, contenuto, però darebbe una percezione migliore di quello che il paese realmente è. Ecco, professore, io vorrei farle sentire una cosa che ci ha detto il professor Guarino a proposito di una soluzione per il modo di far stare o di stare l'Italia in Europa, con un'Europa a due velocità. Senta un attimo, poi ne parliamo. Per uscire da questa gabbia cosa bisogna fare? Per uscire da questa gabbia bisogna utilizzare l'unico potere residuo che secondo me è rimasto. Quale? Quello di passare dalla zona euro, soggetta a queste regole, con la libertà di autonomia politica e monetaria. Se i quattro stati d'Italia con altri tre si mettono insieme, possono realizzare un'unità politica con una propria autonoma moneta e collocarsi al 10° posto nel mondo per popolazione e al 4° per economia. Professore, ecco, per contare in Europa è una soluzione quello di puntare sull'Europa latina? Io direi che fino a questo momento l'Europa latina è un disegno che può avere così un suo valore simbolico, però si scontra con la Realpolitik, dove la Francia difficilmente abbandonerà mai l'abbraccio con la Germania per allearsi con gli altri paesi dell'Europa latina. Per via dei suoi rapporti con la Germania sui debiti crediti? Sì, c'è anche un fatto molto importante, che stando accanto alla Germania, la Francia, pur avendo ormai un debito pubblico che è quasi uguale al nostro in euro, perché noi siamo a 2050, loro stanno arrivando a 1950, mentre 20 anni fa avevano un debito che era la metà di quello italiano in euro, i francesi. Quindi stando vicini alla Germania possono continuare a godere di tassi di interesse, di uno spread contenuto, mentre se si avvicinassero troppo, figurativamente ai paesi del Mediterraneo, del sud del Mediterraneo, rischierebbero di avere un ulteriore discredito che potrebbe giocare contro il loro spread. Ecco, quindi io temo che purtroppo questo sia un sogno di difficile attuazione. Ecco, senta, però invece il vincolo del 3% non è un sogno, ma è un vincolo che è interpretato dagli euroburocrati, è un vincolo che sembra strangolare. Senta ancora il professor Guarino sul vincolo, poi ne parliamo. Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici, mi dice perché? La disciplina è approvata da tutti gli Stati con le procedure di approvazione dei trattati. Era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, professore, questi due poteri sono stati eliminati. È una cosa importante che sono stati sostituiti da due doveri. Il primo dovere è di realizzare il pareggio del bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Il pareggio di bilancio, che è invocato adesso dall'Europa a guida tedesca e impedisce le politiche di sviluppo, lo ha detto, non è contemplato dai trattati. Chi l'ha inventato? Questo è il grande mistero. Noi possiamo dire quali erano gli organi che l'hanno adottato. Cioè i burocrati di Bruxelles, per dirla in un modo che si capisca. Probabilmente la invenzione è dovuta qualcuno degli uffici della Commissione. Quindi, professore, se è come dice il professor Guarino, e penso che sia difficile contestarlo, deve tornare alla politica per dare un'interpretazione corretta della dinamica che porta a un eventuale 3% e consente gli sviluppi, gli investimenti? Io credo che più che altro dovrebbe tornare un po' di buon senso, nel senso che se noi andiamo a esaminare che cosa ha fatto l'Italia negli ultimi 22 anni, cioè praticamente dal 92, è stata sempre in avanzo statale primario in 21 anni, ad esclusione del 2009 dove c'è stata la crisi mondiale, tutti erano in profondo disavanzo. Certo. Questo vuol dire che non certo per merito della politica, ma per merito di cittadini e imprese che hanno sempre pagato puntualmente più tasse per cercare di avere l'avanzo primario statale, e il nostro paese ha sempre onorato il proprio debito e anzi detiene il record europeo del mondo occidentale per numero di anni di avanzo primario. Sì, e allora, non sono professor... stati avanzi primari di poco conto, perché in 14 anni... E quindi il problema è che bisognerebbe tenere in maggior conto della storia anche di un paese, perché l'Italia per dargli credito, per dare credito alle politiche. Sì, perché non ha senso che noi paghiamo praticamente un punto e mezzo di tasso di interesse implicito più della Germania e della Francia, quando ci siamo comportati meglio della Germania e della Francia con gli avanzi primari. E questo primari. È quello che bisogna far valere a Bruxelles. Grazie professore, la ringrazio molto, alla prossima volta. Ecco, l'Italia è il paese dei risparmiatori, ce l'ha appena spiegato benissimo il professor Fortis. Guido Brera, che è il capo degli investimenti e cofondatore di Kairos, una società di gestione italiana, autore del libro I Diavoli. Ecco, chi sono questi diavoli? Dottor Brera, buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno. Ma I Diavoli è una corrente di pensiero che ormai ci ha inondato e ci ha portato a questa situazione, che poi è stata fatta, diciamo, propria da tutti i più grandi macroeconomisti degli ultimi 50 anni, che è il neoliberismo, cioè coloro i quali vogliono sempre crescere, vogliono sempre una domanda interna forte di un paese, e pur di farlo piegano ogni tipo di variabile. E quindi contro i diavoli cosa bisogna fare? Contro i diavoli bisogna capire in che mondo siamo, sì, e soprattutto combattere l'ignoranza. Io lo andrò a dire in tutte le scuole, cioè spiegare che questa corrente macroeconomista è sbagliata di fondo. Ecco, gli investitori crederanno al governo Renzi, secondo lei, se ha un approccio non da diavolo? Guardi, gli investitori ci hanno già un po' creduto, perché voglio dire, già la borsa italiana adesso è tra le migliori piazze dall'inizio dell'anno. Ricordo però che la borsa dal 2000 ad oggi l'Italia ha perso il 50%, più il 52% l'azionario italiano, la Germania ha fatto quasi il 35-36%. Senta, sì, c'è Mario che vuole farle una domanda, scusi. Buongiorno. Buongiorno. La domanda è questa. si stanno circolando varie ipotesi di tassazione del risparmio. Secondo lei, visto che è un operatore del mercato molto attento, qual è la via virtuosa per non incorrere in errori che già sono stati fatti in passato in questo settore? Allora, io vorrei sgombrare, tanto per cominciare, il campo sulla tassazione del risparmio. Lì, quando si è parlato di portare delle rendite dal 12 al 20, quello è, ho fatto i calcoli, sono circa, stiamo parlando di 800 miliardi l'anno in più per lo Stato, forse meno, 700 miliardi l'anno, quindi non è molto. Va benissimo se lo vogliono portare dal 12 al 20, perché alla fin fine poi si vanno a tassare solamente i titoli di Stato detenuti dalle famiglie, che sono circa 200 miliardi di euro. Probabilmente quello che noi dobbiamo vedere è l'altro lato delle rendite finanziarie, cioè quelle sulle azioni, uno paga il 20%, però è anche vero che dall'altro lato le aziende hanno già un tax rate molto alto. No, e allora, dottore, e allora mi dica cose concrete. Basta. Noi è inutile che ci arrovelliamo, qui è come un gioco di scacchi, che a un certo punto il gioco di scacchi c'è l'arrocco. Noi siamo arroccati con l'unica leva che è la leva fiscale, noi dobbiamo uscire dalla scatola. Ma come usciamo dalla scatola? Usciamo dalla scatola andando a trattare con Bruxelles, questo è l'unico modo di fare. Come diceva il professor Fortis. La Spagna l'ha fatto. La Spagna ha superato il debito. Sì, l'ha fatto, lo fece anche la Germania prima dell'euro. Appunto, dobbiamo prendere quella. Ecco, ma ancora una cosa, l'unione bancaria è un'opportunità oppure un'altra fregatura? Quella come 3% interpretato male? Senti, cosa ha detto? Quella è una grande fregatura, quella è la vera fregatura. Cioè, lo spread non guardiamolo più, la verità è che l'unione bancaria è una grande fregatura. Ci sono tre fregature nell'unione bancaria. La prima è che non tutte le banche sono regolamentate, nel senso che la Germania ha levato da questa unione bancaria a tutte le sue piccole banche. Seconda, il capitale regolamentato non è armonizzato tra nord e sud. La più grande è che questo fondo che dovranno costituire le banche andrà in funzione per salvare, per mutualizzare tutto, quindi per creare la coperta, sarà solamente di 55 miliardi di euro e andrà in funzione tra 10 anni. Ora io mi chiedo, 55 miliardi di euro è niente in confronto. Certo. Se noi pensiamo che l'Italia per l'ISM, che è il fondo di stabilità, European Stability Fund, ne ha versati già quasi 70. E quindi, dottor Brera, il problema vero è uno, è che questa fregatura non dobbiamo prenderla, e Renzi deve andare in Europa a contrattare a partire da questa consapevolezza. Prima di chiudere, buttafuoco, una domanda. No, una domanda. Aveva ragione quello allora quando diceva che svaligiare una banca è più onesto che fondarla. Vabbè, forse fin lì non ci arriva neanche Brera con i suoi diavoli. Grazie e pubblicità. Ci arriva Brecht. Mix 24 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Come sempre, la notizia in 3D è stata curata da Sara Tardelli. La canzone. Voglio vivere così, col sole in fronte, c'è felice canto, beatamente. Voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Ah, oggi amo ardentemente con un cielo impertinente menestrello dell'amore. Ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché? Voglio vivere così. Vado? Allora, questo incanto non costa niente. Il succo è tutto qui, perché ormai costa era Renzi, tutti si sentono partecipi di una. Vi aspetto al varco quando poi dovremo fare l'elenco di tutte le delusioni. Sai cosa ti dice Cesare da Torino, Pietrangelo? Dico. Oggi, ma insomma, se sono vecchi non vanno bene, se sono giovani sono troppo giovani, se hanno ideali non sono concreti, se non hanno ideali non van bene lo stesso. Ma buttafuoco, perché non ti candidi tu? Lui si era candidato a fare il ministro, non l'hanno preso. Giusto, a parte questo, poi dovremmo avere tanta fiducia in che cosa? Se ci fosse la sovranità di poter decidere, ben volentieri metteremmo a disposizione le bandiere, gli ideali, le mobilitazioni, la gente, tutti quanti, ma l'Italia non è in grado grado di muovere il naso. Con il che cosa hai fatto colazione stamattina? Con nitroglicerina. E la citrosodina devi prendere che allora. Che cosa bolle in pentola oggi, Mario? Bel minestrone, okay. Con dentro tanta roba, tanta verdura. Bello anche da vedere, anche come fatto culturale, per dire. Se tu ce l'hai lì davanti, fumante, colorato, pieno di sedani, rape, finocchi, carote, eccetera, eccetera, eccetera, e mangi, anche perché hai fame, e quindi lo mangi. Se allora, mangi tutto, Gaber parla del minestrone, ma ce l'ho attaccato a una cosa che ho letto stamattina sul Financial Times. Ma tu, Giornale Sicilia, mai lo leggi? No, sono amici, ma insomma, sai, mi tocca anche essere un po' cosmopolita qui dentro, sennò Giovanni poi... Solo Torino, Sicilia, Sardegna, ma te pare? No. La Sicilia è universale, infatti ricorda che mai si dice per punizione ti mando in Sicilia, ma si dice ti mando in Sardegna. No, qua bisogna fare una convenzione, non nominiamo la Sicilia perché parte automatico. Allora il Financial Times? Oh, scrive, stamattina dice, insomma, badly mixed minestrone, un cattivo minestrone, il che cosa? Il discorso di Renzi. Su questo io volevo portarvi, perché secondo me quello di ieri è stato l'unico punto debole finora mostrato da Renzi. Però anche il Financial Times può sbagliarsi, eh? Non ci sono dubbi, no, però secondo me ci hanno appena spiegato forti, sì. Cioè, che insomma, sì, però il discorso al Senato sulla fiducia è un momento importante, tu lo devi articolare, te lo devi preparare. Ma se li sta mandando a casa i senatori? Sì, però mancava tutta la politica estera, cioè le dichiarazioni programmatiche di un presidente del Consiglio, di un lo Stato, membro del G8, devono bisogna essere fare qualcosa di più. Il solito libro dei sogni. Come, no, bisogna però che ci sia la politica, la cultura, la visione. E secondo me questo è mancato. Pietrangelo. Ovviamente imparerà, io spero che impari. Pietrangelo, insomma. Non glielo facciamo neanche dire cosa pensa. No, perché... voi non pensiate che io parli male solo di Renzi, che abbia dei pregiudizi. No, figurati. Posso farvi sentire una cosa? Sì. Ecco. Le note potrebbero essere fuorvianti, non lo sono, è una pastorale e la pastorale presuppone che cosa? Che ci siano dei pastorelli e che quindi anche queste note che possono essere fuorvianti sono invece calzanti perché ci portano in un'atmosfera natalizia. Sì. E allora io vorrei dirvi e mettervi a conoscenza di un fatto preso dal Fatto Quotidiano che oggi pubblica una bellissima fotografia di Maria Elena Boschi, novella ministro della Repubblica, che interpreta il ruolo della Madonna nel presepe vivente del suo paesello. Bellissimo, no? Bellissimo, bellissimo. E qui vorrei far notare un cambiamento rispetto epocale. Al passato, epocale, perché prima avevamo a che fare con ministre che avevano fatto il calendario. Da star televisive e adesso invece abbiamo ministre che hanno fatto invece presepe vivente, le Madonne devo dire tu ricordi il dialogo in Amici miei quando l'ingegnere si innamorò della moglie del primario della clinica mettiamo per favore, disse ho visto la Madonna. Quindi, posso aggiungere un'altra cosa? Dimmi Pietrangelo, prima ne ho letto uno contro, adesso ce n'è uno a favore. Buttafuoco ha detto la cosa reale, voi sognate ad occhi aperti. Siamo io e i minori, noti sognatori. Un altro argomento a favore, che nel frattempo sfogliando i giornali ho scoperto una cosa che mi ha dato tanta soddisfazione, cioè che un altro neoministro, Marianna Madia, è la nipote di un galantuomo, di un grandissimo, niente meno che Titta Madia, Titta, che fu anche un eroe nella guerra ultima, la seconda guerra mondiale, combattendo contro gli americani. Vi prego, fate partire l'inno del regno di Norvegia. Bellissimo, non sapevo che fossero di voto di tutta. Allora, perché l'inno di Norvegia? Perché c'è un dramma nazionale a Sochi, hanno preso un sacco di medaglie, ma sotto le aspettative. E nel paese è psicodramma. In questi casi bisogna individuare un colpevole e chi è? L'uomo della sciolina. Riceve 100 messaggi al giorno che gli chiedono le dimissioni. Sarà così anche per l'Italia? No. Al telefono abbiamo Giovanni Malagò, presidente del CONI, buongiorno. C'era una grande paura prima dei giochi, è andata tutto bene, insomma una vittoria di Putin. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, grande vittoria di Putin? Ma sotto questo punto di vista è innegabile che insomma si è partiti, ma non solo il giorno prima delle Olimpiadi, ma da le settimane antecedenti, i mesi, forse gli anni, con una pressione formidabile su tutto il tema della sicurezza, esasperato. Vabbè, è andata bene invece. È andata alla grandissima, devo dire, sono tornato ieri sera e devo dire che organizzazione ineccepibile. Perfetto, noi invece siamo arrivati 22esimi, soddisfatto? Noi siamo arrivati 22esimi, se leggi il computo con le medaglie d'oro, sì, che non abbiamo preso. Siamo arrivati 12esimi sia con le medaglie, diciamo, in assoluto il numero, sia sotto il profilo dei finalisti, che è la vera classifica che tiene conto il CIO. Quindi un po' meglio. Ti rispondo, sono contento, sì, perché partivamo da una base di 5, sono soddisfatto, no, perché onestamente a quel punto mi sarei aspettato di poter fare qualche cosa di più, però tu sai che abbiamo avuto, certo, non sono delle attenuanti, ma è la verità. Allora, impressionante numeri di quarti posti, siamo entrati nel Guinness dei primati in questo senso. Medaglie di legno imbattibili, 9 donne al governo, a Sochi vincono le donne, insomma è capitato, finalmente è cambiato tutto. Sì, le donne a Sochi hanno vinto, hanno fatto il 50%, esattamente, che comunque è un bel risultato. Come al governo? Esattamente, come al governo. Onestamente penso come sia giusto, né più né meno. Perfetto, anzi, infatti, se dobbiamo finalmente guardare la popolazione mondiale, dovrebbero avere qualche cosa di più. Senti, ma insomma, sai, siamo sempre lì. Io non starei a misurare col bilancino, ma quello che conta è quello che fanno. A proposito, è chiaro che non si può prescindere dalle donne in assoluto, qualsiasi cosa, certo, uno deve tener conto. Mi rendo anche conto che non si può neanche imporre a prescindere il numero delle donne, ecco, senza tener conto. Senti, di quello che loro, allora, augurandoti buon lavoro per, grazie, il futuro. Noi, a proposito di donne, aspettiamo qui la Pellegrini, che ci hai promesso di aiutarci a invitare, insomma, non so qual è la parola giusta, insomma, come la vorremmo intervistare. Come tu sai onoro sempre la parola e ho parlato con lei sta negli Stati Uniti, dove sta facendo un collegio in altura, vedrai che è la prima occasione la coinvolgo. Grazie. Senti, non me la fate strapazzare troppo, però lì. No, la trattiamo benissimo, benissimo. Grazie Giovanni, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Abenomics has three arrows. La Abenomics è costituita da 3 frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. L'economia giapponese si sta concentrando soprattutto sul tentativo di liberarsi dalla deflazione cronica. Deflazione cronica, questo è il tema, dramma, diciamo. Allora, l'Unione Europea si sta preparando, lo segnalo e va seguito nel corso del tempo questo fenomeno, a tagliare le sue stime, o comunque a rivederle, se volete usare un'altra parola, per l'inflazione sul 2014. Avevano previsto un tasso di 1,5, a gennaio è stato 0,8, evidentemente molto basso. Segnalo che prezzi sempre più bassi fanno entrare l'economia in una spirale, poi per cui le aziende si fanno una competizione sfrenata, alla fine, non potendo più fare leva sul prezzo, fanno leva sul costo del lavoro e sapete come, licenziando. Quindi, esatto, bisogna stare molto attenti. Poi però c'è anche un'altra cosa su Abe che voglio raccontarvi. Non sono note buttafuochesche, io sapete sono più rockettaro, questi sono i Led Zeppelin, è un brano classico, perché? Perché ci vuole energia e il Giappone, come sapete, non ha fonti, grandi fonti di energia, ha il nucleare. Dopo Fukushima si disse chiuderanno tutto, non faranno più programmi nucleari, sperieranno le centrali, in realtà non è così. Il premier Shinzo Abe ha confermato che l'energia nucleare è vitale per il Giappone, e quando non hai le risorse tu per forza devi andare avanti, è il principio di realtà. Il canzoniere. Facile, facile, facile, oggi un classico della letteratura italiana, vado a leggere l'incipit. Io ero quell'inverno in preda ad astratti furori, non dirò quali, non di questo mi sono messo a raccontare. Mix 24. Mentre aspettiamo le risposte al nostro gioco, Salamini. I Salamini di oggi sono dedicati alle traversie di un fumetto, Lady Mafia. Questo è il fumetto e l'antimafia chiede che venga sospeso, ritirato. E a proposito di questo argomento, di quanto piaccia nella letteratura, nell'immaginario, nella narrazione, voglio dedicare all'antimafia, con tanto rispetto, questo dialogo di Bice Valori e di Ave Ninchi. Tuo cugino Cammelo che fine fece? Temporaneamente emigrato, Definitivamente morto, E da che morì? Non posso dicere. E fammelo almeno capire. Quando tirano un pallone in porta, lo portiere che fa? Lo para. E di chi si morì Cammelo? È giusto, perché da fumetto a narrazione non si scappa. Micidiale. È una bolla. Semplice canzone da due soldi che si canta per le strade. Non ve l'aspettavate, no. Non ve l'aspettavate, Nilla Pizzie. Senti, no. Senti. Mondo all'animo i ricordi. È la canzone due soldi. Perché? Senti, senti. Kurt Bale. È una semplice canzone. Perché il Bitcoin, la moneta virtuale, sul quale noi avevamo detto che, insomma, secondo noi non va bene questa cosa qua, che è volatile, non si vede, eccetera, ha poche garanzie perché non è uno Stato che la emette, eccetera. Vabbè, fate quello che volete, investiteci pure. Io segnalo che una delle piattaforme di transazione, la MT Gov, è svanita per insolvenza. Parliamo di milioni e milioni di dollari reali che poi vanno veramente in fumo. Quindi continuate pure a trattare quella moneta, fate come volete. Io do un modestissimo e umile consiglio: prendete il sempreverde bigliettone, il dollaro. Siamo sempre sul dollaro. Yes, e chi vince il nostro dollaro? C'è il vincitore Stefano da Milano. Stefano! Pronto? Allora... Pronto? Allora il ci dici. Conversazioni in Sicilia di Ennio Vittorini. Giusto! Perfetto! Ah, giusto! Bravo! Ma che colti i nostri ascoltatori! Furori. Quindi grazie. Arriverà. È sempre sorpreso, Buttafogo quando qualcuno indovina. Perché avrebbe indovinato anche naturalmente il professor Daniele Doglio, professore di economia dei media, che ci ascolta. Buongiorno. Buongiorno professore, buongiorno, è inutile che glielo chieda, avrebbe indovinato ovviamente. Con un feltrinelli. Ma intanto professore, che cosa ci racconta oggi di quello che capita nel mondo dei media? C'è una convergenza a livello mondiale sui contenuti? C'è una convergenza a livello mondiale sui contenuti. Diciamo che io in questo momento, come sa, mi trovo in un altro paese. In Inghilterra. E sono venuto... Sì, esattamente, sono venuto per lavoro e poi domani spero di partecipare a questa grande conferenza che si tiene a Oxford, la Oxford Media Conference, che mette a fuoco ogni anno l'evoluzione dello scenario dei media inglesi e in particolare quest'anno sarà molto focalizzato sull'evoluzione del sistema televisivo, quindi poi ne parleremo evidentemente quando sarà il momento. Ma hanno già cominciato a dare fuoco alle polveri e uno dei temi sarà proprio uno di quelli che a lei interessa particolarmente, la risposta alla domanda fondamentale: ma davvero la Gran Bretagna ha bisogno della BBC? È una domanda. Che fine farà il servizio pubblico inglese? Perché anche lì scade la convenzione, anzi la concessione della BBC. Scade la concessione 2015-2016, quindi anche lì ci sono, come dire, gli stessi tempi che abbiamo noi in Italia, qualche semestre precedente. Solo che loro hanno cominciato a discuterne un po' prima, sono partiti e stanno cominciando ad affrontare, a mettere a fuoco i temi chiave e uno dei momenti sarà questa conferenza, di cui poi spero di sarà molto interessante gentile omaggio, certamente se avremo occasione. Elementi per il dibattito all'Italia. Sì, ovviamente. Certo. Altre cose che sono successe recentemente, ha fatto anche qualche rumore sui media italiani, questa conclusione della gara per accaparrarsi Time Warner Cable, infatti, di quello parlavo, sì. La divisione cavo di Time Warner. L'affare sembra chiuso, adesso c'è l'antitrust americano che deve dire la sua, perché comunque l'acquisizione da parte del primo operatore cavo americano, che si chiama Comcast Universal, è soggetto in qualche modo a uno scrutinio dell'autorità di controllo, perché le due società insieme arriverebbero a servire circa 33 milioni di famiglie, quindi qualcosa di più del 30% del mercato della televisione via cavo americana, servita di colpo da un solo soggetto invece che da due. È un affare di cui si è parlato anche per la consistenza dell'offerta, 45 miliardi di dollari, sono numeri a cui in Italia, certo, ovviamente noi non siamo abituati, però non sono lontani dagli andamenti anche europei. Ricordo che l'anno scorso un altro operatore americano, John Malone, Liberty Media, ha comprato la Virgin Media inglese, sempre un sistema via cavo, e ci ha investito 25 miliardi di sterline, cioè 30 miliardi di euro, quindi, cioè tanti soldi, miliardi di dollari. Tanti soldi. Vuol dire che si è rimesso in moto intorno al sistema dei media un grande movimento d'affari della finanza, della grande finanza. Certo. Che cosa cambierà negli Stati Uniti? Beh, se ci sarà il via libera della Federal Communication Commission e dell'antitrust, sostanzialmente nulla, nel senso che Time Warner avrà un grosso risparmio, avrà un sollevio, come dire, sollievo debitorio, potrà, sì, certo, risparmiare qualcosa e concentrare le energie e le risorse in quello che poi sostanzialmente sa fare meglio, cioè la produzione dei contenuti. Questo poi sarà il grande scontro, perché tante piattaforme, ma i contenuti, chi li ha, vincerà. Ecco, però questo movimento americano ci fa capire anche che siamo alle soglie di un salto di paradigma. Bene, del salto di paradigma ne parleremo la prossima volta, perché siamo in chiusura. Grazie professore. Oggi Marina Milone con Walter Veltroni racconterà l'omicidio di Valerio Verbano, uno degli enigmi degli anni di piombo, rivendicato sia da destra che a sinistra, che apre delle ombre molto inquietanti su quegli anni.